da droga. Mi fa alzare i soldi, Bolivia o Venezuela. 15 anni nei pantaloni, tre collane al collo. Troia vorrebbe fottermi. Divento Super Saiyan quando merce soldi. Ho il futuro nella giacca di Sandro. Vesto francese, la mia città è Parigi e Mess. DPG 777, crack musica, moltiplico soldi. Avevo 4 in matematica, adesso al petto brilla la galassia. NT dentro le tasche del G-Star, casca il maracana. Troia vuole portarmi a cena fuori, concentrato a fare soldi. Scarpe in pelle d'agnello, non siamo corridori. Non metto roba sportiva, Fendi o Gucci, fumo mazze, ma non gioca a baseball. Acqua fina, brillo come il sole. Sul lobo destro non vendo merda al dettaglio. Vesto rosa, salmone, Kenzo. Non mi fido del mio avvocato, solo di mio fratello. Fottuta droga, mi fa alzare i soldi, Bolivia o Venezuela. 15 anni nei pantaloni, tre collane al collo. Troia vorrebbe fottermi. Divento Super Saiyan quando merce soldi.